Va bene, incominciamo. È la seconda volta che Jacopo è qui a presentare i frutti del suo vasto e meritorio lavoro di ricerca. Il primo incontro fu dedicato al rapporto tra operaismo e architettura, tema che si ritrova ampiamente anche in questo nuovo libro. Varie volte invece è venuto nel corso degli anni a lavorare in archivio e a scambiare delle idee con noi, con Pino innanzitutto, ma anche con chi collabora all'archivio Primo Moroni. Oltre che darsi disponibile, nonostante un fortissimo raffreddore, per fare una lunga intervista, dialogo con Irene mentre stava preparando il suo lavoro di tesi su un pezzo della vicenda di cui tratta anche questo libro. Questo libro, lo sapete, si intitola Immagini di classe, operaismo, autonomia e produzione artistica. Ora, non sarò io a riassumere i termini storici e intellettuali della questione, lo farà Jacopo nell'introduzione generale. Però basti dire che questa vicenda di elaborazione teorica, di lotta, di organizzazione, nel suo rapporto con la produzione artistica disloca radicalmente i termini del discorso tradizionale dell'impegno. L'artista è l'impegno, l'approccio che era stato dominante negli anni precedenti all'interno delle istituzioni principali e politicamente dominanti del movimento operaio e delle loro articolazioni culturali, la politica culturale del PC, il calendario del popolo, la socializzazione della cultura, la cultura come uno dei passi sulla strada dell'emancipazione dei poveri, del proletariato, eccetera, con tutto quell'insieme di topoi legati a quell'impostazione. La vicenda che inizia con l'operaismo e prosegue poi nella variegata area afferente all'autonomia operaia, come l'abbiamo definita nella breve nota introduttiva, perché dell'autonomia operaia si può parlare solo al plurale. È stata una vasta congerie di esperienze che convergevano nel loro carattere di rottura, ma che muovevano da situazioni locali diverse, perché uno dei caratteri forti della vicenda dell'autonomia operaia e anche di altre formazioni degli anni 70 è il fatto di essere legati a delle particolari configurazioni del rapporto di classe che hanno anche e fortemente un carattere territoriale. Milano, Torino, Napoli, Roma sono soprattutto erano allora realtà sociopolitiche molto diverse e l'agire e il pensare di quei militanti era il tentativo di dare forma a questi caratteri propri dei territori in cui si muovevano, oltre che perseguire piani più generali. E in questa dislocazione dei termini del rapporto tra intellettuali e classe operaia entrano in campo nuove e forti categorie. Innanzitutto una ridefinizione del lavoro intellettuale, nella sussunzione da parte del capitale e in un frangente storico che vedeva la nascita e affermazione dell'industria culturale, quindi dei termini molto, molto diversi da prima, dal periodo precedente, e quindi dall'essere artisti in una maniera nuova. E in questa maniera nuova, di fronte alla sussunzione e al recupero da parte dell'industria culturale di una serie di temi umanistici, i problemi di ridefinire questo rapporto con il movimento, con le lotte. Dentro questa ridefinizione della figura stessa dell'intellettuale, la valenza della critica rispetto alla produzione acquista, insomma, risalta al massimo, perché comune è l'esigenza di fare qualcosa che non venga immediatamente veicolato e contribuisca alla, insomma, all'imbonimento generale. Ecco, questo è un qualche cosa su cui vale la pena di soffermarsi oggi, perché è esattamente il contrario di quanto avviene. Oggi qualsiasi minima espressione di creatività viene subito succhiata, e gran parte degli operatori trova in questa funzionalizzazione del discorso critico, della creatività, della scoperta di nuove forme dell'espressione, un motivo di soddisfazione, di valorizzazione. Ecco, l'approccio in quegli anni, sia all'interno di questa corrente ma in generale, era del tutto diverso, e quindi veniva proprio connotata dallo spirito del tempo anche questa questione. E dentro questi termini nuovi del rapporto di classe e della lotta, un'altra faccenda estremamente rilevante era quella della massificazione. Così come vengono massificati i comportamenti del rifiuto operaio e diventano l'istanza di una nuova opzione di lotta, lo stesso le produzioni culturali, le esperienze artistiche d'avanguardia trovano non solo un terreno più ampio e più fertile di circolazione, ma proprio trovano un nuovo statuto, tanto che uno dei critici artistici del tempo, secondo me più in sintonia con il movimento Calvesi, parlò di avanguardia artistica di massa. Ecco. Questo proprio così per accennare solo velocemente ad alcuni dei temi che poi nel lavoro di Jacopo sono illustrati a partire da una serie di esperienze concrete, di storie, di situazioni. Siccome il campo è vasto, si è deciso di scegliere alcuni di questi passaggi del rapporto, a questi passaggi aggiungere delle sollecitazioni ulteriori, cioè su quelle questioni cosa accadeva, magari anche a lato, a fianco delle situazioni di cui si parla nel libro. Perché? Perché questa è la mia idea, questo lavoro notevole andrebbe esso stesso visto come un pezzo di quella geografia delle lotte, gli incroci, delle esperienze teoriche che è riportato graficamente a pagina 87. Sì, la metto qua. Cioè quella cartografia che Primo Moroni fece del divenire delle teorie, delle esperienze di critica e di rivoluzione sul piano del pensiero e dell'organizzazione, ecco, andrebbe fatta anche della vicenda di cui tratta Jacopo, secondo me, nel senso che per capire appieno la portata e l'importanza di queste vicende, queste andrebbero confrontate con altre opzioni date allora, con alcune pieghe diverse, e questo cercheremo di farlo per accenni in un dialogato che faremo con Jacopo dopo la sua introduzione generale. Ecco, uno di questi passaggi sarà quello relativo al rapporto con Balestrini e la neoavanguardia. Lo anteporremo ad altri per un motivo pratico, perché il compagno che dialogherà con Jacopo su questo deve andarsene a una certa ora, e quindi, anche se non è logicamente il primo, lo metteremo. Basta così. Beh, innanzitutto grazie, grazie, sono onorato di essere qui, appunto un luogo che è importante, molto importante per la vicenda di cui parlo e anche per la storia di quella vicenda attraverso l'archivio Primo Moroni. Dunque, cerco di dire in due parole da dove nasce questa ricerca. Allora, nasce poi fondamentalmente da un motivo che è pratico, cioè trovare dei soldi, dei fondi per continuare a fare questo lavoro. E questo era un tema che all'estero, forse più che in Italia, in particolare nel mondo anglosassone, suscitava un grande interesse. Sono riuscito a mettere insieme un progetto che è stato finanziato e che mi ha permesso di concentrarmi per 3 anni sulla scrittura di qualcosa che la cui ricerca era iniziata anche prima, naturalmente. L'idea di fondo era: io sono uno storico dell'arte, queste sono vicende politico-sociali che sono state spesso trattate da un punto di vista che è quello della storia sociale, della sociologia, della storia dei movimenti. Io volevo portare un contributo che fosse un po' diverso e che andasse a guardare appunto la produzione artistica. Come forse spesso accade, uno parte con dei pregiudizi, cioè io andavo a cercare inizialmente gli artisti che c'erano, che erano stati presenti in questa vicenda. Poi, chiacchierando, facendo tante interviste con alcuni dei protagonisti, che in parte sono anche qui, con Sergio, con Paolo e con tanti altri, mi sono accorto che invece si parlava spesso di grafica, si parlava spesso di architetti che poi magari fanno un lavoro un po' diverso da quello che è quello dell'architetto, ma che i grandi artisti che io ho nella mia testa ci sono stati, ma che non erano forse la componente più interessante e più importante di questa vicenda. Quindi ho cercato anche di studiare la storia dell'architettura, della grafica, di rimpostare un po' quelli che erano i miei pregiudizi. Quindi è venuto un libro che in qualche misura ha cercato di riprodurre quelle che erano un po' le categorie dell'epoca. Quindi si troveranno pochi quadri in questo libro, o si parla di grafica, appunto di video, si parla di mostre militanti che magari sono più importanti per quello che hanno prodotto a livello di idee che per quello che hanno esposto di per sé. Ecco, poi a posteriori, per certi aspetti, il senso del libro mi è apparso più chiaramente. Come spesso accade nella vita, il senso delle cose emerge retrospettivamente. Perché? Perché fondamentalmente oggi la produzione politica militante, la produzione dei movimenti, è in prima istanza una produzione visiva, attraverso i social media, naturalmente. Comunque la possibilità di produrre immagini che, come dire, in grande numero, di grande qualità a volte, cosa che non era necessariamente vera negli anni 60 e 70. Ecco, questa prospettiva, inizialmente un po' risultato delle mie competenze, non è che non ve lo nascondo, si è rivelata, secondo me, almeno questa è la grande speranza di questo libro, forse la sua ambizione, un modo per creare un dialogo. Cioè per dire, guardate che oggi alcuni problemi che ci si pone quando si fa una produzione visiva per dei movimenti, per delle lotte, per delle campagne, affronta delle tematiche che sono già emerse all'epoca. Ecco, quindi c'è questo tentativo di, o meno questa proposta di andare a vedere, di avere una prospettiva che è un po' insolita, ma che secondo me oggi diventa molto più interessante. Si legge meno oggi, certo, all'epoca si leggeva molto di più, però oggi si guardano e si sanno guardare, secondo me, le immagini molto meglio, e questo permette appunto di andare a riscoprire qualcosa che c'è stato. E nell'ambito di questa vicenda intellettuale e politica c'è stata una produzione visiva, artistica, a volte molto sottile, a volte molto sofisticata, e il libro cerca di rintracciare, quindi anche tanti dibattiti su cos'è un'arte militante, su come si deve agire per certi aspetti, come si produce un'arte militante. E quindi come si critica anche, per esempio, la funzione dell'intellettuale degli anni 50 che veniva un po' dall'alto, la persona che aveva studiato, che però spesso sapeva poco di quella che era la realtà, appunto, diciamo, operaio, di certa classe operaia italiana dell'epoca. Ecco, questo è un po' in sintesi il senso di questo lavoro. Poi Per chi prenderà il libro capirà che ci sono veramente tantissime vicende, tantissimi aneddoti. Io sono un grande appassionato di aneddoti, però ecco, questa è un po', come dire, la circonferenza del lavoro. Sì, una cosa a mio avviso molto apprezzabile di questo libro è che viene fatta saltare la distinzione tra grande arte, grande produzione culturale, arti applicate, arti basse, esatto, povere. Perché? Perché così era in quegli anni, innanzitutto. Assolutamente. L'autorialità era stata in buona parte scardinata, il lavoro collettivo era alla base, poi su questo verrà fatta anche dell'ideologia sicuramente, ma alcuni punti fermi dell'ideologia intellettuale artistica del tempo erano e quindi tutto quello che poteva funzionare per produrre una parola, un'espressione, un segno andava bene, non c'era da appunto da organizzare mostre, magari le si organizzava anche, ma era altro il centro delle attenzioni. Quindi questa è una cosa importante perché corrisponde è una scelta importante perché corrisponde all'oggetto della, certo, della ricerca. E i, cioè, nomi sono tanti, sì, manca l'indice dei nomi. Nella seconda edizione ci vuole l'indice dei nomi delle riviste citate, perché se no uno non si ritrova più. Si perde, è vero. Si mette lì una settimana, lo si fa. E l'ultima cosa, visto che si parla di tante tecniche, mettiamole, non dico tutte, ma tipo un grosso assente a mio avviso è la fotografia. La fotografia che fu in quegli anni una delle pratiche espressive artistiche che proprio erano dentro il movimento, dentro un'idea di trasformazione, di presa sul reale, non solo perché c'erano i fotografi che partecipavano alle situazioni di lotta, riprendevano le manifestazioni, eccetera, ma perché nacquero delle nuove maniere di essere fotografo. Penso un nome fra tutti, Aldo Bonasia. Prendiamo una foto di qualche foto c'è. Ecco, però anche uno sviluppo della questione della fotografia e del fotomontaggio meriterebbe, secondo me. Sì, no, ma in realtà ci sono tante foto, ma sono spesso foto che appaiono nelle riviste, no? Per esempio Aldo Bonasia ha fatto questa, l'avete vista prima, questa bellissima foto che si chiama La Barricata, che poi diventa una cartolina. Ecco, questa è una foto di Aldo Bonasia. La fotografia in realtà forse, ripeto, non è che sia assente del libro, forse non è come dire, uno dei focus tematici per il banale motivo. Allora, forse i motivi sono due. Da un lato è già stata un po' studiata, ci sono tante cose su, che ne so, Tano D'Amico, grande fotografo militante, ma lo stesso Bonasia. E poi per un problema pratico, è un problema economico, cioè pubblicare delle foto è più costoso. Molto più costoso, per esempio il caso di Bonasia. Bonasia purtroppo si è tolto la vita e il suo lascito è finito nelle mani del figlio, che è un personaggino delicato, e quindi pubblicare le foto di Bonasia non è tutt'altro che scontato, e quindi andare a fare un lavoro più puntuale su alcuni fotografi a volte si può rivelare concretamente un ostacolo. Però ecco, questo ovviamente non vale per tutti, qui ci sono delle foto di alcune, diciamo, performance, oggi potremmo chiamarle così, e foto poi appunto, ecco, magari sulla copertina di una rivista, foto che nessuno sa chi ha veramente fatto, ma insomma sono foto di movimento, come si diceva all'epoca. Però ecco, poi ecco, ci sono anche, prima parlavamo dei vari strumenti artistici, ci sono anche, questa è una delle scoperte di cui sono più fiero, perché all'epoca, quando è iniziato queste ricerche, non c'era assolutamente nulla. Per esempio sul gruppo Immagine di Varese, che è un gruppo di artiste femministe che aderisce alla campagna per il salario e il lavoro domestico, che espongono dei lavori spesso incentrati sul cucito, sul ricamo, ovviamente un ricamo anche un po' sovvertito. Però ecco, c'è veramente una quantità di, come dire, modalità espressive molto eterogenea. E questa è un po' una sfida, chiaramente. Ecco, vuoi fare un'introduzione generale, come si era detto all'inizio. Su Balestrini? No, prima del pezzo su Balestrini e il gruppo 63, su appunto cosa, dovendo dirla in 5 minuti, sì. Cos'è che caratterizza questo rapporto tra teorici militanti e artisti, diversamente da altre esperienze che... Certo. Ecco, questa è una di quelle domande molto difficili e però assolutamente necessarie a cui ho cercato di rispondere. Alla fine del libro, quando veramente dopo anni e anni di lavoro comincio a dire ok, però cerchiamo di venire al nocciolo di alcune questioni. Allora, non c'è, questo lo dico, non c'è niente che possiamo chiamare estetica operaista, ancora meno estetica autonoma. L'autonomia operaia è una galassia molto più articolata, complessa, eterogenea del fenomeno, diciamo, più storicamente operaista degli anni 60, che anche numericamente è più circoscritto. Quindi, ma in entrambi i casi non c'è un tratto comune, uno stile. Ecco, sarebbe stato, come dire, una tentazione facile quella di andare a identificare, ma non è così. Quello che però si riscontra, dal mio modo di vedere, è un approccio, cioè uno stile non visivo, non grafico, ma un approccio al fare, alla produzione artistica in ambiti di movimenti, in ambiti politici. E io ho cercato di identificare due o tre caratteristiche che sono ricorrenti. Beh, allora sicuramente, e secondo me questo è ancora assolutamente attuale, un problema etico-politico, cioè come fa la persona, l'artista, comunque la persona che ha delle competenze visive o architettoniche, insomma, chiamatele come vuol dire, competenze tecniche specifiche, a intervenire in un ambito di protesta, di lotta, di movimento. Allora, ci sono stati, un'esperienza classica che io cito in libro è quella, diciamo, secondo me, più problematica, cioè tu operaio, prenditi la telecamera e fai il film operaio. È stato fatto, è stato fallimentare. C'è un esempio di questo operaio di lotta continua che viene invitato nella Cina maoista nel 1970, torna con un girato deludentissimo, celebrativo, di scarsa qualità estetica e tecnica. Questo non è il film operaio. Altro approccio potrebbe essere l'artista su commissione, per così dire, fa l'opera, che in qualche misura rispecchia alcune istanze, l'opera fatta benino, che si fa lui nel suo studio. Questo approccio, che a volte torna anche utile, anche per questioni di tempo, però ha degli altri limiti, che sono tutti politici, etici, e insomma, fondamentalmente contraddicono l'idea di stare dentro un movimento. Ecco, la gran parte di questi lavori, o meglio dei lavori di cui parlo nel libro, invece cercano una sorta di dialettica, un termine un po' così, ma insomma, di dialettica tra il dentro e fuori, tra la competenza e le categorie e le istanze che vengono dal movimento, che è tutto un lavoro di rielaborazione, di compromesso, di negoziazione e poi anche di critica, di autocritica. Vi faccio un esempio concreto, il film Potere Operaio fatto da Baruchello. Baruchello prende il girato di alcuni movimenti, tra l'altro, ma questo anche da lotta continua, ma all'epoca non si poteva veramente dire, prende il girato, lo mette insieme, e perché ha delle competenze tecniche, sa fare dei film, e poi il suo contributo dov'è? Beh, nell'audio, nel rapporto tra video e audio, cioè di come lui introduce delle voci, degli scarti tra immagine e parola, di come combina, per esempio, il filmato di una fabbrica e l'audio di una manifestazione, eccetera, oppure lui che legge un testo. Cioè ci sono degli scarti che sono, come dire, il contributo dell'artista, che però, ecco, non, come dire, si basa poi su un materiale che viene prodotto dal movimento. Un'altra caratteristica direi che è quella che io ho chiamato strategia, più correttamente, strategia dell'esasperazione. Concetto complesso che viene da Mario Tronti, ma insomma, che potremmo definire così, un tentativo non di andare, come ha fatto tanta controinformazione, ma del resto anche in modo opportuno, a raccontare la verità contro il falso, contro quello che viene censurato, contro quello che viene distorto dai mezzi di comunicazione, diciamo, più mainstream, ma la strategia dell'esasperazione è quella della parodia. dell'assurdo, appunto dell'esasperazione di una contraddizione che non viene risolta visivamente, ma che viene mostrata per quello che è, cioè una sorta di rivelazione della contraddizione attraverso questa strategia che si articola in modi molto diversi, che è quella dell'esasperazione. E poi ci sono degli atteggiamenti forse più canonici nell'ambito di quello che è la sinistra in movimento, e cioè una critica alla figura dell'artista come colui che in qualche misura priva, come dire, individualizza, a volte privatizza una produzione che invece è sempre collettiva di idee, di immagini, di immaginari. Una critica di quello che è la tradizione della storia dell'arte, che storicamente ha escluso tutta una serie di tecniche, per esempio il ricamo, il cucito ed altre cose, con una critica o comunque con un implicito che è spesso fondamentalmente sessista, cioè il ricamo, arte dello spazio domestico, arte femminile, almeno dall'Ottocento in avanti. Ecco, quindi le artiste, in questo caso il gruppo Immagine, si riappropriano di una tecnica, no, guardate che questa non è una tecnica minore. Ecco, queste sono alcune delle caratteristiche. E poi io direi, quindi, critica dell'artista, critica dell'arte nelle sue, come dire, in quello che è stato canonizzato, e critica anche naturalmente dell'intellettuale, cioè come figura privilegiata, separata, se è così. Quindi c'è tutta una riflessione su quello che deve essere, come dire, un intellettuale di movimento, un quadro di movimento, come diceva il Quati, cioè una figura nuova, diversa, che appunto, per esempio, che è quella di una nuova figura sociale che emerge negli anni 70, cioè di una persona che ha studiato, che non deve andare a portare come dire, i libri come facevano, ne so, i bolscevichi a un proletariato in parte analfabeta. No, una persona che ha studiato e che allo stesso tempo subisce quelle forme di proletarizzazione molto analoghe a quelle che sono della classe operaia più tradizionale. E anche qui io ritrovo come dire, delle connessioni col presente. Il concetto di proletarizzazione del lavoro intellettuale, vedete subito che è una parola un po' ridondante, verbosa, però chiamiamolo in un altro modo se volete, forse è anche opportuno, ma ecco, a me sembra che queste siano questioni molto attuali. Va bene, ovviamente strappando il microfono a Jacopo ci sarà possibilità di intervenire, di interloquire, di domandare, eccetera. Va bene, facciamo il primo pezzetto di quella doverosa e necessaria scelta. Quindi antologia del 61, gruppo 63, Neo Avanguardia, Balestrini. Sì, allora la figura di Balestrini è estremamente interessante perché è una figura appunto di uno scrittore che ha già alla fine degli anni 60 una reputazione di scrittore sperimentale, di artista in parte, ma insomma diciamo di scrittore d'avanguardia, e che appunto, come diceva Roberto, nasce, fa parte di questo gruppo di mi pare 5 poeti che pubblica un'antologia nel 61, si chiama I Novissimi. Nel 68, questo me l'ha detto Nanni, che ho avuto la fortuna di incontrare e intervistare, dice: io mi sono accorto che c'era qualcosa che non funzionava più in un lavoro intellettuale, magari anche sui linguaggi della politica, ma fondamentalmente esterno a quello che fossero le lotte, i movimenti. Nel 68 ho capito che c'era un problema, ovviamente semplifico molto, ma insomma. E questa è una grande contraddizione che emerge in seno a quello che è stato il gruppo 63, la loro rivista, che era appunto il... adesso mi sfugge, come si chiamava la rivista? Il 15, esatto. Il gruppo 63 sostanzialmente si spacca su queste tematiche, cioè sul ruolo che deve avere la politica nella letteratura, che può avere la politica nella letteratura, e Balestrini, forse diciamo pure il più politicizzato, comunque quello che, come dire, prende più di petto questa contraddizione che emerge nel 68-69, ma anche già nel 67 in parte, le prime occupazioni dell'università in Italia sono del 67, E è uno di quegli intellettuali, se volete nel vecchio senso della parola, che aderisce in questo caso all'avventura di Potere Operaio, con tutti i limiti, le contraddizioni e le fatiche del caso, cioè appunto con tutto un, come dire, anche sicuramente una, voleva dire rimettere in discussione il proprio ruolo, voleva dire magari appunto sì, essere in una posizione in cui uno deve imparare più che insegnare, che per un intellettuale che si era formato negli anni 50 era una posizione abbastanza insolita, soprattutto per chi non veniva dal Partito Comunista. Il caso di Balestrini è interessante perché è anche quello che all'interno di Potere Operaio si occupa un po' di creare, con molta fatica a volte, curare i contatti col mondo intellettuale artistico romano, in parte milanese, ma soprattutto romano. E quindi è quello che per esempio porta Umberto Eco a discutere con Piperno, uno dei leader romani di Potere Operaio, è quello che porta Baruchello, questo artista che all'epoca era già piuttosto noto e bravo, dentro Potere Operaio, che porta Giovanni Anceschi a fare, anche lì un artista in questo caso milanese, a fare la grafica del primo Potere Operaio. Cioè è quello che tesse questi legami, che però sono sempre molto faticosi, perché ci sono anche dei testi sul Potere Operaio del lunedì di critica aperta e anche abbastanza crudele nei confronti degli intellettuali che non si accorgono di essere dei servi del capitale, eccetera. Quindi la figura di Balestrini è estremamente interessante. Per certi versi negli anni 70, anche se non avete un capitolo su Balestrini, però la sua figura emerge a più riprese, e anche quello che secondo me di fatto va ad assumere un ruolo che oggi è estremamente vitale e importante, cioè quello dell'artista o dello scrittore militante che si occupa della logistica militante, no? Per esempio Balestrini nel 77-78 crea una cooperativa di editori che si chiama Area, in cui si cerca di produrre dei libri dell'area, diciamo, di movimento, minimizzando i costi, facendo appunto la maquette in modo tale da ridurre i costi, la distribuzione, insomma, crea una sorta di rete alternativa di produzione militante, ma lo fa da artista, cioè continuando a scrivere, continuando a fare poesie, continuando a pubblicare, cioè non come qualcuno faceva, cioè lasciando da parte l'arte o la scrittura, la letteratura come qualcosa di borghese, malvagio, facciamo, no. Riesce sempre a mantenere, secondo me, in modo estremamente originale e attuale, a essere attivo in ambiti diversi e portarli insieme, a incarnare una figura che fondamentalmente è qualcosa di nuovo degli anni 70. Questa, secondo me, è una grandissima lezione, quindi che non trovate necessariamente nella poesia di Balestrini o nel suo lavoro per Potere Operaio, ma nell'eterogeneità del suo lavoro degli anni 70. Ecco, sulla questione della neoavanguardia, Massimiliano Cappello viene a raccontarci un po' di cose, a partire dal primo testo di Fortini per Quaderni Piacentini, un altro approccio alla questione, sempre nell'imminenza di quello che poi sarà il 68. Grazie mille a Roby, grazie a Jacopo e grazie della parola, insomma, e a voi che siete qui. Quello che dici è veramente molto bello ed effettivamente su questo crinale qui si potrebbe giocare tutta un'epoca, perché in realtà leggendo il libro si vede molto bene come l'operazione sia quella di esporre senza più individuare la conflittualità che al tempo si avvertiva praticamente insanabile. Cioè nelle pagine del libro si trovano assieme in maniera organica, cioè continua e coerente, quello che appunto era l'intento, il proposito e la pratica delle neoavanguardie del gruppo 63, precedute da quello che era stato per un gruppo di intellettuali, in particolare attorno a Olivetti, e poi in gruppi e riviste come Quaderni Rossi e Classe Operaia, il discorso sul rapporto tra industria e produzione artistica, no? A me è piaciuto molto il fatto che Jacopo abbia in qualche modo non pacificato ma individuato la contraddizione superiore, cioè non quella su cui dibattevano ma il discorso entro cui entrambe avevano la loro parte di ragione, la loro parte di avevano toccato quello che era il nodo della questione da prospettive diverse. Questo è molto bello perché molto spesso i libri che si leggono su queste questioni sono ancora molto polarizzati da una parte o dall'altra, e molto brevemente è tutto quanto in una lettera di cui Jacopo ha recuperato una porzione, la lettera che nel 1961 Franco Fortini aveva spedito in tutta Italia, in realtà via fax. 61 via fax? Praticamente aveva praticamente inviato una sorta di fax, nel senso che in un giorno o l'altro, che è il suo diario in pubblico, dice: feci quello che oggi si fa con i fax, è nel 78 che lo dice. Praticamente spedii un dattilo scritto a tutti quelli che conoscevo in Italia, tutti quelli che erano nella mia agenda. E praticamente gli unici a rispondere furono Pier Giorgio Bellocchio e Grazia Cherchi, che fondarono poi il nucleo principale dei Quaderni Piacentini. E in questo testo Fortini parlava dell'operazione Gattopardo, la chiama lui, che nella politica culturale italiana era all'opera, quindi il tentativo di rendere ogni sfera del sapere, mettiamola così, separata e specialistica. Creando delle zone non più di comunicazione che rendevano di fatto impossibile una sintesi. Ecco. E, dall'altra parte c'era invece il gruppo 63, che invece aveva fatto prima con i Novissimi e poi appunto formandosi a Palermo nel 63, quel lavoro di, era stato detto di... lavoro sullo sguardo, no? C'è un saggio di Umberto Eco del modo di formare come impegno sulla realtà, in cui si parla del modo di guardare, appunto, della tecnica dello sguardo. E le avanguardie avevano fatto questo sostanzialmente, avevano ripreso la lezione dei modernisti e in particolare di Eliot e Pound nella poesia, e cercato di portare le contraddizioni laceranti di una realtà non più, come si dice, formata, appunto, ma esposta nella sua conflittualità anche visiva. E questa è una cosa interessante, è l'ultima cosa che dico perché davvero il libro è ricchissimo, eccetera. C'è una cosa che non c'è, e nel senso è veramente 200. Tra questa, in questa diciamo frastagliata esperienza, c'è un autore, c'è un, diciamo, una figura che in qualche modo ha cercato di tenere insieme tutto, e che è arrivato, diciamo, alle estreme conseguenze di questo percorso. Me ne hai fatto venire in mente quando parlavi della cinematografia militante. Questo autore è Giorgio Cesarano, che si era formato attorno a Fortini, nell'ambito, diciamo, di quella scuola poetica che cercava di uscire da una rappresentazione ermetica prima e progressista poi, per porsi dei problemi come ad esempio il comunismo e l'instaurazione o quantomeno la proposta di un nuovo comunismo, come appunto è riportato nella nota. Cesarano, tra l'altro, era un antiquario a Bergamo e commerciava soprattutto in quadri. Giovanni Raboni, in una delle sue prime recensioni, parla, mettendolo a confronto con i Novissimi, del gusto visuale che hanno tutti quanti, appunto da Pagliarani, in misura minore forse, a Balestrini, a Sanguinetti, dicendo Cesarano ha il gusto ottico e visuale delle macerie, le vede anche lui come le vedono loro, solo che Cesarano cerca di andare oltre, ovvero cerca conseguenze che siano pratiche, cerca conseguenze che non si risolvano nel terreno della pura teoresi, nel terreno della formula. Cesarano e Raboni dice formule di truce indifferenza. in certi casi, no? E Cesarano poi prosegue questo discorso ottico e visuale fino a che nel 1969 non scrive il suo ultimo poemetto, che è Ghigo vuole fare un film, in cui fa un'operazione di questo tipo, cioè tematizza l'impossibilità di catturare il senso profondo di un'esperienza rivoluzionaria come quella che Cesarano stava vivendo in quegli anni. Si era radicalizzato, aveva sostanzialmente trattenuto legami con i Quaderni Piacentini, i Quaderni Rossi e poi Classe Operaia. Aveva fatto parte di un primo tentativo con Roberto Roversi di formare una cooperativa di scrittori che autopubblicassero in ciclo stilato i loro libri. E poi nel 67 all'incirca aveva cominciato a partecipare a quella che sarebbe poi precisata come l'ondata del 68. Nel 69 scrive questo testo in cui di fatto tematizza l'impossibilità di fare un film militante, di catturare l'esperienza nel montaggio. Lo fa con un poema che è un montaggio di scene disarticolate che non riescono a rendere questa organicità. E alla fine fa una cosa, secondo me, sublime, se vogliamo. Prende uno spot della Coca-Cola, uno spot che fa Coca-Cola è tutto quello che fai, è la gente che sa, è la gente che vive, tempo di Coca-Cola, e lo dispone dispone su carta, di modo che la voce principale, che è una voce femminile, e il coro, che è il coro maschile, stiano sopra e sotto, e al centro il verso centrale dice «è la realtà». E come nota dice «questa è una bella definizione di dominio reale del capitale». Dopo questo poemetto Cesarano deciderà, coerentemente con la sua ricerca, di smettere con la pubblicistica letteraria, quindi non di rifiutare in toto la poesia o l'arte, ma di muoversi sul terreno della saggistica a breve termine, perché Cesarano vive in un periodo in cui sente che la rivoluzione è dietro casa, e arriva di fatto a lasciare completamente il discorso poetico, dicendo, con una bellissima frase che si trova nel suo ultimo libro edito In vita, che è Manuale di sopravvivenza, ogni discorso che pretenda di superare a livello della teoresi l'interdetto che ci vieta di vivere in un altro modo non fa altro che produrre lo stesso falso metaforico di cui oggi siamo tutti quanti spettatori inermi. E in una lettera con cui si congeda dalla poesia dice sostanzialmente questo: mi sono deciso a lasciare questa cosa nonostante fossi stato riconosciuto come poeta, perché lo sforzo di criticare radicalmente la società capitalistica deve recuperare la lingua contro la, no, meglio, deve recuperare la parola nella sua accezione individuale, singolare, quindi non rinnegando quello che farà Balestrini, ma in maniera diversa, contro quella che è l'imposizione della lingua, la lingua del capitale, quella che determina in qualche modo il discorso. E appunto dice recuperare la parola laddove la lingua si è fatta di catene e di armi. E è molto bello, qua chiudo, che il poemetto Ghigo vuole fare un film comincia proprio con i versi: o il reale come lingua in debito di rivoluzione, o la lingua come il debito, l'espropriazione. Ecco. È molto interessante questa cosa di Cesarano. In effetti il libro, scegliendo, e non sarebbe stato possibile fare diversamente, scegliendo una linea abbastanza specifica, come giustamente diceva anche Roberto all'inizio, isola qualcosa che isolato non è mai stato. Quindi tutti questi dialoghi, questi incontri, scontri, effettivamente sono molto importanti, perché poi il senso vero di un'opera, anche, non so, Balestrini, si capisce cogliendo quello che nell'ambito appunto politico-letterario sta emergendo parallelamente a sinistra. Figure come Cesarano stanno venendo riscoperto molto anche all'estero. Mm-hmm. È estremamente interessante quello che ti dici. Io conosco molto poco, però ti ringrazio di questo, perché grazie a te per è molto importante. È davvero molto molto bello. Questa è un'opera di Balestrini, per questo l'ho presa a farvi un esempio. L'originale, che è un foglio, gli è stato sequestrato dalla polizia nell'ambito del processo 7 aprile, ed è stato distrutto, però l'opera viene proiettata lui la realizza proiettandola poi sulla tela, però ecco, originariamente sono dei collage, sono dei collage che lui realizza, e quindi diciamo così l'originale non esiste più. Bravo Massimiliano, sono suo amico. Facciamo con Ricerche Arte Daniele Montaldi. Volentieri. Uno dei capitoli è dedicato a questa figura, come dire, un po' generale eterodossa, ma sicuramente, ecco, lo vedete qui lo vedete ritratto, ecco, non c'è una sua foto, ma è ritratto da un amico artista milanese che si chiama, diciamo milanese di adozione, Guerreschi. E la figura di Montaldi è una figura interessantissima, perché Sergio l'ha conosciuto molto bene, perché è una figura importante sia per Quaderni Rossi, perché dà delle indicazioni su come eventualmente fare delle con ricerche. Cos'è? Allora forse vale la pena dire che cos'è la con ricerca, cioè un termine che Montaldi non usa, però che insomma è diventato abbastanza canonico per descrivere il suo lavoro. La con ricerca è un tentativo di tornare, cioè di andare a vedere, di fare ricerca, ma senza quello sguardo esterno, appunto, tipico dell'intellettuale o del sociologo, che è un po', il contraltare del lavoro di Montaldi, e qui è la sociologia italiana agli albori, che va lì col questionario a chiedere, a fare domande, a avere risposte. No, cioè, diciamo così, nell'ambito della corricerca il questionario stesso viene, elaborato insieme ai soggetti, che non sono più appunto poi soggetti, non sono più oggetti di un'analisi, ma diventano soggetti, e che rimettono in discussione i risultati, le forme, i modi della ricerca. Punto primo. Punto secondo, la corricerca non è semplicemente uno strumento conoscitivo appunto descrittivo, ma ha come scopo di mobilitare, politicizzare, agire, insomma, in termini forse più generici, però ecco, quindi ha lo scopo di cambiare, diversamente da una sociologia che, per riprendere quello che diceva Massimiliano, per certi versi faceva, almeno secondo alcuni, e credo in modo abbastanza corretto, faceva un po' quello che rimproverava Cesarano, cioè settorializzare le cose, no? Quindi il sociologo che si occupa, in realtà sono pochissimi all'inizio, del lavoro di fabbrica, si occupa di quella roba lì, non ragiona in termini più ampi su quello che sta accadendo. Il lavoro di Montaldi, che è un lavoro appunto da militante di base, che è anche il titolo di un suo libro, invece cerca di avere uno sguardo e una capacità di agire che va al di là di una disciplina specifica. Lui è interessantissimo, è una figura, la cui qualità umana e intellettuale è stata riconosciuta ormai da tempo, non è che lo scopro io. Fa tra l'altro una delle prime, adesso non voglio troppo soffermarmi sulla sua originalità, perché questo potrebbe essere il tema di un convegno, e ce ne sono già stati, ma quello che ho fatto io è un'altra cosa, cioè è andare a dire, parlando con la vedova, una persona ancora, adesso non la vedo da qualche anno, siccome non si sa mai, però estremamente lucida, gentile, brillante e ancora molto innamorata di suo marito, che però è morto 50 anni fa, attraverso la vedova scopro che Montaldi ha avuto una galleria d'arte per 10 anni, e lei stessa mi dice, giusto che tu ne parli, perché quando io dico questa roba i militanti storcono un po' il naso, come se fosse stato un vezzo, ma lei l'ha fatta per 10 anni questa galleria, ha investito tantissima energia e pazienza in un lavoro che insomma non è stato molto valorizzato. Allora sono andato a vedere gli archivi, sono andato a vedere la sua produzione, diciamo anche ha scritto molto per gli artisti che lui presentava in questa galleria, e i carteggi, in particolare questo carteggio con quest'artista che si chiama Guerreschi, un artista noto e importante di quello che è stata una tendenza che si chiama realismo esistenziale, e si scopre che questo lavoro di con ricerca che Montaldi faceva con i militanti di base o con quelli che vivevano sulle rive del Po, oppure nella famosa Corea, no, qui a Milano, quelle che l'epoca si chiamavano Coree, cioè forse potremmo dire una sorta di baraccopoli autocostruite. Autocostruite, ecco. Lo fa in piccolo anche con un artista, cioè con Guerreschi cerca di stabilire un rapporto che non è, come dire, non c'è la teoria, ma lo si vede nel carteggio e nelle mostre che loro organizzano, che è un po' un rapporto di co-ricerca, cioè non io intellettuale ti vengo a dire cosa secondo me sarebbe opportuno fare, o ti interpreto il lavoro in un modo brillante e tu artista ci metti la mano, fai, come dire, la famosa dicotomia testa-mano, no? Tipica di tanta cultura occidentale. No, rifletto con te, discuto con te, elaboriamo delle categorie insieme, e questo ha dei riflessi incredibili anche sul lavoro di Guerreschi, che in funzione del loro dialogo pubblica dei testi che sono un mix del loro carteggio, in cui non c'è più una voce narrante, non c'è più il montal di Guerreschi, c'è un testo a più voci, delle opere che sono il come dire, ecco, per esempio quest'opera, il famoso Rudi Dutschke di Guerreschi, e Montaldi fa delle critiche a questo Rudi Dutschke, e Guerreschi torna sulla propria opera e ci ragiona, e poi l'opera finale espunge completamente la figura, diciamo, del rivoluzionario tedesco. Ma insomma, come dire, sono opere che sono il frutto di una ricerca comune, in cui si perde questa dimensione intellettuale artista o critico d'arte artista, che invece ancora strutturava il mondo dell'arte dell'epoca. Ecco, oltre a questo lavoro molto ravvicinato con Guerreschi, Danino Montaldi riscopre di fatto un pittore cremonese, Renzo Botti, figura marginale simile a Orlando Pi, per molti versi simile alle figure di cui tratta Autobiografia della Leggera. E questo lavoro Montaldi lo fa con Gianfranco Fiameni, che insieme a lui anima la galleria e che scrive dei testi, a mio avviso, molto importanti, in cui vengono presi in considerazione sia grandi figure delle avanguardie, ma anche questioni come le modalità tecniche di riproduzione delle stampe popolari. C'è quella mostra su Epinal, ma c'è anche un saggio di Fiameni su una tecnica litografica, oramai non più in uso, che proprio viene esaminata dal punto di vista della sua fruibilità, della sua circolazione, un approccio beniaminiano in questo senso. E rispetto al dibattito in corso in quegli anni sul populismo, il povero, eccetera, benché Autobiografie della Leggera sia stato molto apprezzato da Pasolini, il punto di vista di Montaldi è totalmente diverso. Cioè Montaldi ricerca in queste figure marginali l'individuo storico, quindi non vite che si sono consumate ai margini della società, ma piuttosto che hanno attraversato la storia del Novecento, e Montaldi riesce addirittura ad acquisire delle informazioni, delle conoscenze sul corso della vicenda del comunismo italiano che ai tempi erano sconosciute. Ad esempio, le pagine su Gramsci in carcere che lui si fa raccontare da uno di questi emarginati sono un'assoluta novità, quella parte rimossa per motivi politici nella storiografia del Partito Comunista, lui riesce a riportarla in superficie, anche perché muove da un'idea dello sviluppo capitalistico molto originale e profonda, quindi un'attenzione ai dislivelli dello sviluppo capitalistico, e quindi non la fabbrica che si mangia a tutto, i territori che vengono semplicemente svuotati, sono gli anni della grande emigrazione dalle campagne. Lui riesce a ritrovare la storia dentro questi processi di migrazione, so, quel pezzo in militanti politici di base sulla emigrazione degli ex braccianti dalle cascine cremonesi dopo che è stata abolita l'imponibile di manodopera che stabiliva che per tot terreno servissero tot salariati agricoli, è proprio un pezzo della storia politica della Lombardia. Ecco, c'è un'altra, la figura di Montaldi contigua, intreccia queste esperienze, ma con un qualche cosa che secondo me aggiunge, e cioè certo. Il fatto che Montaldi ha molto a cuore le esperienze politiche rivoluzionarie delle minoranze che poi sono state sconfitte a partire dagli anni 20. Non a caso il suo ultimo libro pubblicato postumo, che si intitola Corsche e i comunisti italiani, viene fatto grazie alle testimonianze di Corradi e Pappalardi. Così come la sua stessa esperienza politica, lui inizia a militare molto, molto giovane, si alimenta dei racconti e dei documenti riportati in Italia dagli sconfitti del PCD. Ecco, questo tratto di cercare di tenere insieme le generazioni sconfitte con il presente e l'istanza di rimettere in circolazione queste idee della rivoluzione è quello che secondo me lo caratterizza, oltre alla sua estrema curiosità, perché giustamente tu hai sottolineato come Montaldi sia critico nei confronti della sociologia quantistica, ma Montaldi al tempo stesso la sociologia quantitativa, ma Montaldi è all'origine della sociologia in Italia, certo. Il suo lavoro con Pizzorno è fondamentale. Anche della psicologia sociale, è quello che porta in Italia Maurice Solbach e tante altre figure, con sempre però una sensibilità, un'attenzione all'espressione. Ad esempio lui si interroga molto con Fiammini sul silenzio operaio. No, perché gli operai non parlano nelle riunioni? E il suo stesso lavoro di con ricerca è un lavoro di non solo condivisione delle aspirazioni e della tensione al cambiamento, ma è un lavoro di riscrittura insieme agli intervistati delle testimonianze, in questo con un approccio diverso da quello che aveva ad esempio Gianni Bosio, che era molto più filologico. Però Montaldi ritiene che non ci si possa fermare lì, si deve andare più a fondo nel rapporto di copresenza con l'intervista. Ecco, sono tanti i motivi, giustamente hai ricordato Guerreschi, ma non è l'unico artista di quegli anni con cui Montaldi collabora. C'è Beppi Romagnoni, figura molto, molto importante nella sua attività. Insomma, il giro di Brera degli anni 50 e successivi è al centro di questo, ed è uno dei percorsi. Ecco, non per rompere le balle, ma in questo fare arte nel movimento, la prossima volta bisognerà parlare del collettivo Pittori del Ticinese, perché è stata una cosa molto grossa, molto forte, non solo perché si tratta di grossi nomi, ma perché è stata una vicenda interna, addirittura interna anche a questo, non a questo posto fisicamente, ma alla Calusca del tempo, di produzione artistica dentro le lotte, molto molto significativa. Certo. Sì, adesso poi quest'anno è la, non so che anniversario della biennale dedicata al colpo di Stato in Cile, ci sono appunto anche a Venezia tutta una serie di dibattiti e di riscoperte del collettivo di Porta Ticinese, che era molto investito nella questione cilena. Ne facciamo ancora uno, poi iniziamo la discussione, sì, le domande, sì, eccetera. Io ti proporrei appunto quel tema che abbiamo accennato all'inizio, la massificazione dell'avanguardia, l'avanguardia sì. artistica di massa, sostanzialmente il 77, sì. nei suoi immediati precedenti e in tutto quello che ha portato a livello di rottura dei canoni espressivi, linguistici, artistici e quant'altro. Certo. Sì, questa della vicenda del 70, del movimento del 77 in Italia è stata a lungo per me una questione delicata, nel senso che includerla o non includerla, come includerla, perché lì di materiali visivi e di creazioni artistiche ce ne sono davvero tanti, e le filiazioni operaiste, insomma il tema che mi ero dato, incominciano a sfrangiarsi sempre di più. Diciamo, questo era un po' il problema di fondo quando mi sono messo a fare questa ricerca e a cercare di delimitarla anche storicamente. Ecco, prendiamo solo un tema, secondo me abbastanza interessante. La figura, allora, il problema della visualizzazione di una soggettività antagonista, nella tradizione operaista si confronta con un problema non da poco, cioè... Se è vero come è vero, e questo lo diceva Tronti con la sua eloquenza, che lui diceva la classe operaia è nemica anche di se stessa come capitale, allora da artista come fate a rappresentare positivamente un soggetto che ha una sua negatività, la cui negatività è proprio parte della sua identità? Quindi se... in buona parte, ovviamente ci sono mille eccezioni, ma in buona parte di una sorta di iconografia classica della terza internazionale, l'operaio o il lavoratore, spesso uomo, ma insomma, è la figura positiva che guarda al sol dell'avvenire, muscoloso, fiero, dignitoso, in forma, in salute, la parte migliore dell'umanità. Se voi partite dal presupposto, che è una caratteristica poi di buona parte dell'operismo, che la classe operaia è nemica anche di se stessa in quanto capitale, cioè in quanto capitale variabile, sollevate un problema che, come penso si capisca rapidamente, filosofico, ma dal punto di vista visuale non da poco. Cioè, come rappresenti quindi un soggetto che ha in sé, come dire, che la cui abolizione è parte stessa del suo progetto politico? Bene, una delle strategie che nasce già in classe operaia è quella di rappresentare magari obliquamente la classe operaia come figura mostruosa, come figura che appunto che ha una negatività al suo interno, che è fuori diciamo dalla tassonomia politica di buona parte del Novecento. Questa cosa ritorna nel movimento del 77. Secondo me è interessante vedere questi legami, un po' per caso, un po' per scelta di alcuni artisti, in questo caso Pablo Echauren, riappare la figura del mostro. Ecco, io mi sono un po' concentrato su questa figura perché secondo me è molto interessante per vedere delle continuità all'interno del libro, all'interno di un linguaggio visivo che non è necessariamente un linguaggio dei testi, cioè di mostri non si parla nel 70, comunque si parla ancora molto poco, poi emerge magari anche il dibattito, ma nel 77 si vedono i mostri. Li vedete già qui, ma insomma si vedono per strada, si vedono nelle riviste, si vedono nelle fanzine, il drago del movimento l'avete visto anche prima. Ecco, questi mostri sono un'espressione secondo me molto interessante, cioè un esempio di come studiare le immagini non sia semplicemente studiare delle illustrazioni di ciò che viene scritto e chiarito altrove, ma studiare qualcosa che ha una sua semantica, una sua, diciamo, autonomia relativa, ovviamente. E quindi, ecco, è una delle tematiche su cui mi sono focalizzato. Questo è un articolo di Sergio che viene illustrato da altri mostri, insomma, acefali in questo caso, se volete, con operai. Ecco, quindi il 77 nel libro appare un po', come dire, come la coda di un fenomeno che è iniziato molto prima. Però non conclude il libro, questa è una cosa molto importante per me, perché come buona parte di voi sa, c'è stata nel contesto del processo 7 aprile, che però inizia nel 79, c'è stato un tentativo, tuttora che ha, come dire, tuttora un impatto nel dibattito, la morte di Negri l'ha rivelato ancora una volta, un tentativo di chiudere una fase storica che secondo me, e questo è un problema, come dire, metodologico, ma ovviamente tutto politico, quando uno costruisce un libro da storico deve capire qual è la fine. Io non volevo che lo decidesse il processo, come spesso a volte viene fatto nei libri di storia. Il processo del 7 aprile viene a 7 aprile 79, gli arresti che seguono, viene a chiudere una fase. Ecco, l'ultimo capitolo invece va al di là e segue una cosa, tra l'altro segue alcuni percorsi, ma anche, per esempio, sono contento che ci sia Paolo De Ganello qui, alcuni percorsi che mostrano che no, che anche chi era in carcere, per esempio Alberto Magnaghi, anche lui purtroppo ci ha lasciato qualche mese fa, continua a riflettere e in questo caso penso al suo dialogo con Paolo De Ganello, che fortunatamente era fuori, continua a riflettere anche sull'estetico, anche sul visivo, sullo spazio dell'abitare dopo il processo 7 aprile. Ecco, quindi l'ultimo capitolo, oltre che fare un lavoro di ricostruzione, è proprio, vuole anche essere no. Il processo 7 aprile non chiude questa avventura, continua, bisogna magari andare a cercare negli archivi, ma c'è qualcosa da dire anche dopo. Va bene, io ti chiederei un'ultima cosa, forse la più strana del libro, Bodoni e classe operaia. Dimmi, le tue domande sono perfide, dimmi subito cosa vuoi dire. No, siccome all'inizio hai detto che nel libro si considera non solo la produzione, sì, artistica più elevata, ma anche la grafica, certo, quindi tutto quello che concorre alla formazione del foglio, sì, stampato, ecco, volevo chiederti... sì, un passaggio magari anche veloce. Volentieri. Su, non addentrandoti nella differenza tra Baskerville e Bodoni e il suo senso sono, teorico sono due generale. Font, sono due caratteri tipografici. Sì, è molto interessante perché innanzitutto quando io facevo le interviste, ripeto, come dicevo all'inizio, quando ancora cercavi i grandi artisti, per così dire, e una cosa che ritornava spesso era: ma la nostra rivista era la più bella, non la più intelligente, quella più letta, ma la più bella. E questo può far sorridere, invece non è un dettaglio da poco, cioè la bellezza grafica è molto importante, anche perché, come giustamente diceva Roberto, poi c'è una competizione all'interno della sinistra o del movimento, quindi quello che è la rivista più bella, c'è una competizione. Allora, Quaderni Rossi, questa la vedete, la copertina è geniale, nel senso che, certo, oggi è difficile vedere, come dire, l'originalità. Negli anni 50, una copertina il cui testo inizia sulla copertina, cioè il primo saggio appare sulla copertina, e dietro non avete, come nella maggior parte dei libri, come nel mio, il nome dell'autore, ma avete l'indice della rivista, vi obbliga di fatto a sapere cosa ci sta dentro, vi obbliga a iniziare a leggerla, se lo sguardo, cioè c'è tutta una strategia. Bene, questa cosa viene ripresa niente meno che da Munari, grande grafico e artista, e tutt'oggi quando voi prendete un libro della Bianca Einaudi, forse l'avete presente, la collana di poesia, inizia con una poesia sulla copertina. Questa invenzione è di Munari, ma di chi è? È di Quaderni Rossi, che è la prima rivista che inizia, come vedete, col testo già dentro. Alquati, una figura di cui non abbiamo parlato ma molto interessante di tutta questa vicenda, dice in un'intervista, ovviamente mi auguro con un'esagerazione: noi ci abbiamo messo 6 mesi a pubblicare perché non eravamo d'accordo su quale carattere usare. Io volevo usare il carattere Baskerville, che indicava già di per sé tutta una politica. Allora, già interessante, solo che cosa vuol dire che il carattere Baskerville? Quindi ho cercato di capire un po'. Ora, ovviamente, insomma, è un commento che lascia anche un po' il tempo che trova, però questo vedete la maquette. Quello che è interessante è che classe operaia, che diciamo nella vicenda operaista, si vuole come una sorta di... nasce da una scissione all'interno dei Quaderni Rossi, quindi si posiziona inevitabilmente anche contro i Quaderni Rossi, anche se sempre in dialogo, graficamente usa il carattere Bodoni. La cosa di per sé sembra un dettaglio, però in effetti nella storia della grafica, che mi sono andato un po' a consultare, Bodoni, il carattere Bodoni è quello che porta alle sue estreme conseguenze il carattere Baskerville. Sono caratteri settecenteschi. Parma, tutta la città di Parma, la grafica della città di Parma è fatta in Bodoni, perché Bodoni viene da Parma, insomma, vabbè. Comunque è molto interessante la storia dei caratteri grafici. E questa grafica viene fatta da Manfredo Massironi, che è un artista del gruppo N, che è il primo artista che cerca di pensare il lavoro dell'artista alla luce delle riflessioni di Tronti e di Classe Operaia e delle lotte di Marghera. Massironi è a Padova. E l'impaginazione grafica, la scelta dei caratteri, quindi è fatta da una persona che conosce molto bene la storia della grafica. E quindi forse non è così, come dire, esagerato dire che la scelta di Bodoni rispetto a Baskerville è una sorta di noi facciamo un passo più in là. Tra l'altro, e qui chiudo sulla storia della grafica, questa frase che voi, che chi si occupa di operaismo conosce sicuramente a memoria, cioè occorre rovesciare il problema, cambiare il segno, ripartire dal principio, e il principio è la lotta di classe operaia. Perché questa frase così, come dire, che indica una metodologia su cui poi tutto l'operaismo costruisce anche una riflessione storica, è così famosa? Forse anche perché Massironi ebbe l'intelligenza di metterla in rosso. Ed è l'unica frase in rosso, a parte il titolo, di classe operaia. Ecco, per parte mia chiuderei con alcune parole che arrivano spiritualmente dai primi anni venti e che dialogano con il tuo libro. Le parole sono queste: non volevamo né bonzi né politicanti né intellettuali che ci portassero la coscienza dall'esterno. Apprezzavamo invece quella pattuglia di studiosi, poeti e artisti che erano usciti dalla loro torre d'avorio per cercare insieme con noi le teorie più ficcanti, le parole più adeguate e le immagini più belle con cui analizzare, evocare e raffigurare quanto si stava vivendo. E chi è? Questo non te lo dico. ma sospetto. Beh, va bene, la parola ai presenti. Sergio, vieni. Possiamo fumare qui, cosa dici? Certo. Tu devi prendere. Per restare in argomento, un nome, Giancarlo Bonfino. Bene che lo dici tu. Giancarlo Bonfino ha fatto la copertina e la grafica del Primo Maggio. Siccome io ho conosciuto prima Moroni tramite Giancarlo, ovviamente sono molto legato a questa figura, anche lui, una figura, come dire, con una fine tragica, suicida. Ma Giancarlo, la cosa importante è che lui aveva scritto un libro, credo uno dei pochi libri che sono stati scritti proprio tra il rapporto tra rivoluzione e arte. La politica culturale operaia dalla Sala Marx al 19. Esatto. E aveva analizzato soprattutto la vicenda weimariana, perché durante la Repubblica di Weimar è stata, come dire, un po' approfondito questo tema, no? È stato trattato questo tema. Quindi lui, diciamo, era perfettamente consapevole, insomma, che esisteva questo ambito che tu appunto hai isolato come diciamo argomento, che è uno degli argomenti più importanti, diciamo, no? Però io volevo ricordare altre cose. Per esempio, giustamente tu dici, partiamo dalla tematica dell'industria culturale. Ora, chi è che ha come dire, non coniato il termine, ma insomma ha fatto una teoria dell'industria culturale? Adorno. In Dialettica dell'Illuminismo c'è quella parte proprio sull'industria culturale, secondo me anche la parte più bella. E ricordiamo come è entrato Adorno nella cultura italiana. La prima traduzione di un'opera di Adorno, Minima Moralia, la fece Renato Solmi, uscì negli anni 50, no? Metà degli anni 50 per Einaudi. Dialettica dell'Illuminismo esce nel 1966, giusto? Dico bene? Sì, 66. Sì, perché poi esce Angelus Novus. Ed è sempre Solmi che la traduce, però con uno pseudonimo, perché nel frattempo lui era stato licenziato, così come fu licenziato Raniero Panzieri dalla casa editrice Einaudi, no? La cosa interessante è che se noi vogliamo pensare a qualcuno che ha cercato di tradurre in pratica, insomma, quelli che erano le teorie adorniane, sono i quaderni piacentini. E non poteva che essere così, perché Renato Solmi, assieme a Fortini, è stato, diciamo, quello che ha tenuto a battesimo i quaderni piacentini. Tra l'altro la più, come dire, approfondita recensione della dialettica dell'illuminismo la scrive Cesare Pianciola sui quaderni piacentini. Quindi c'è questo, diciamo, questo rapporto molto forte sostanzialmente, ecco. Quindi volevo ricordare queste cose perché e tra l'altro, se vi ricordate, nei quaderni rossi, ma non mi ricordo in quale numero, Fortini fa tradurre, e forse l'ho tradotto io ma non me lo ricordo bene, nel terzo numero, il discorso che Brecht fece al congresso degli scrittori del 1935 di Parigi. Quindi c'era anche tutta la tematica rapporto tra letteratura, no, e scrittura, che Franco, insomma, indubbiamente aveva. Quindi, diciamo, i quaderni piacentini nascono in quel modo, diventano quel tipo di rivista, proprio perché dietro ci stanno questi due, come dire, padrini, no? Che uno è Renato Solmi, l'altro è Fortini, il terzo potrebbe essere Cesare Cases, sostanzialmente. Quindi, voglio dire, all'inizio non è soltanto l'operaismo, voglio dire, no? Cioè, è una parte della cultura italiana che si stacca da Gramsci, perché sostanzialmente, secondo me, la nuova sinistra in Italia inizia da quando, diciamo, esiste un pensiero che si stacca da Gramsci, che Tronti lo approfondisce, a Sor Rosa nella parte letteraria, eccetera, perché era il modo per staccarsi dal Partito Comunista, cioè dire, quella è una nostra storia. Sì, però in realtà adesso noi la facciamo la storia, cioè, no? Cioè noi creiamo sostanzialmente una nuova fase, diciamo, del movimento operaio italiano. Insomma, questo poi è stato per io. No, volevo dire solo questo. È bellissima citare Bonfino, perché Bonfino, di cui parlo nel libro, è una figura interessantissima di persona che veniva da Quarto Giaro. Io ho incontrato la vedova un mese prima che morisse, è stato anche molto commovente, perché con un tumore ai polmoni fumava una sigaretta dietro la cena, non se ne frega. Tanto io tra qualche settimana non ci sono più. E fortunatamente una vedova tedesca che viveva a Berlino e mi ha detto scrivi che lui veniva da Quarto Giaro. Sì. È una figura per l'epoca anche abbastanza interessante, cioè di proletario che si forma a concorsi serali a Brera, credo, e diventa un grafico di altissimo livello. E che però ha anche un percorso politico estremamente interessante, perché prima si stacca dal Partito Comunista, poi lotta continua, poi delusa la lotta continua, insomma è tutta una vicenda molto, come dire, di rovello intellettuale, che però si articola anche in un lavoro grafico interessantissimo. Lui fa delle vignette, fa un film, fa dei fumetti, cioè una figura che fortunatamente c'è un sito internet fatto dal fratello in cui ci sono un po' di suoi materiali, però non esiste niente su Bonfino, che invece è una figura proprio per queste vicende interessantissime. Quella vignetta tragica, no? Lui a un certo punto fa una vignetta dalla quale si capisce che Feltrinelli, Gian Giacomo Feltrinelli, no? Di un tizio che ha una bomba in mano con una miccia, no? E questo tizio parla finché la bomba gli scoppia. E questa vignetta, come dire, fatta 3 anni prima del modo in cui e lui rimase colpito da questa storia qua. Tra l'altro la storia del suo libro, il suo libro nasce un po' anche da un mio manoscritto. Io, diciamo, dopo che mi ero laureato e che avevo scritto sta tesi sulla Chiesa Confessante, ho scritto un libro sulla resistenza tedesca al nazismo, essenzialmente sulla resistenza, diciamo, comunista, eccetera, che doveva essere pubblicato da una casa editrice che si chiama Salto Area Editore, nel 64. Io consegno il manoscritto, erano 250 cartelle scritte a macchina, con l'Olivetti 22, come gli consegna l'editore fallisce, però persona onesta me la paga, mi restituisce il manoscritto e io non lo riprendo praticamente più in mano, cioè non lo pubblico, lo tengo lì. Giancarlo sapeva questa cosa, quando ha incominciato a scrivere questo libro lì sulla politica culturale me l'ha chiesto, io gli ho prestato questo manoscritto, non avevo copia, e dopodiché è successo quello che è successo. Io non ho avuto più coraggio di chiedere al fratello o alla vedova cosa era successo di questo mio libro, è sparito dentro questa vicenda. Ma comunque lui effettivamente aveva questa fortissima, come dire, radice proletaria che lo metteva sempre in una posizione, come dire, di diffidenza nei confronti degli intellettuali. E al tempo stesso era un grande intellettuale, veramente, perché aveva una capacità, cioè una finezza proprio di intuizione di moltissimi passaggi, intellettualmente molto complessi. La grafica, come vedete, in parte riprende per certi aspetti il Quaderno di Rossi, cioè inizia il primo saggio, inizia sulla copertina, però lui fa una scelta che è l'editrice di Alba Estana, cioè una grafica, diciamo, modernista, molto tradizionale, e questa cosa si la trovate in tutte le pagine, cioè sono due colonne. Infatti è la rivista più bella. Ecco, va ricordato che Bonfino non solo fa la grafica di primo maggio, ma vi pubblica due importanti saggi, uno sull'Agitprop, il teatro proletario in Germania negli anni 20, e l'altro, mi pare di ricordare che sia suo, sulla grafica degli IWW, che si intitola Il muschio non cresce sui sassi che rotolano. Quindi sì, sono le uniche immagini, ecco, forse l'unico... È la più bella, ma è una rivista quasi senza immagini. Le uniche immagini sono proprio quelle che accompagnano questi due articoli di Bonfino, che sono interessantissime e che riflettono proprio su parte quello che dicevo prima. L'iconografia dell'operaio degli anni 10 e 20, appunto, International Workers of the World, questo è l'IWW, è un'iconografia, lui dice, che rimette in discussione come dire, l'iconografia dell'operaio Dio, muscoloso, sono piccolini e arguti, piccolini e astuti, e questa è un po' la ritrovata in tutta la tradizione degli anni 70. E poi un libro edito da Calusca, La mano schiaffona. Questo non lo conosco. Te lo facciamo vedere. Un fumetto, un fotomontaggio molto molto originale. Comunque, come detto, c'è un sito ancora in costruzione, però in buona parte già visibile, curato dal fratello. Sì, no, comunque è un bel sito. Lui faceva anche la grafica per Forum Editoriale, anche lì con fotomontaggi molto originali, insomma, la grafica degli annali, delle copertine degli annali Feltrinelli. Il numero sul sindacato in Italia è suo, insomma, una produzione cospicua e interna, perché appunto era sempre in Calusca. E... Sì. Sì, ci sono un sacco di figure che meriterebbero studi più approfonditi. Bonfino è sicuramente una delle più importanti del libro. Te lo chiedo io, cioè, secondo te, abbiamo trattato di artisti essenzialmente, però non credi che accanto a questi artisti c'era quello che Roberto diceva, appunto, questa avanguardia di massa, certo, forse senza abilità artistiche, che però ha creato culture in quegli anni. Cioè io così butto di Macondo, i 14 di Macondo non erano forse artisti, due figli di Samponè, però ecco, non erano Samponè, non erano Rostani, certo, non credo che, no, certo, fosse artista, però anche loro hanno creato in quegli anni cultura, Santa Marta, questi centri all'interno dei centri sociali, circoli, forse non avevano verità artistiche, ma hanno creato cultura. Ah no, assolutamente. Ma guarda, una delle ambizioni del libro, soprattutto dovete immaginare, il libro è come dire, esce innanzitutto in inglese, si rivolge, ma questo, come dire, secondo me è una qualità, a un pubblico internazionale. Quindi, non so, troverete, non nella versione italiana, ma nella versione inglese, Padova, una cittadina non lontana da Venezia. Cioè, mi rivolgo a un pubblico magari australiano, magari canadese, magari, che ne so, brasiliano, che non sa necessariamente dove è Padova. Quindi c'è a volte uno scarto anche, che è un po' il risultato di questo tipo di lavoro. La questione fondamentalmente iniziale era questa, cioè, ok, Antonio Negri tradotto in tutte le lingue, Silvia Federici, parliamo di figure meno note al pubblico internazionale, però inevitabilmente questa sorta di desiderio di, come dire, di rifiuto di un certo elitismo che sussiste, che c'era quando ho iniziato questo lavoro, ne riproduce un altro, perché poi io comunque mi occupo di grafici, Massironi, Anceschi, Buonfino, che comunque, insomma, su cui ci sono dei materiali. Poi però c'è, come giustamente dici tu Andrea, ci sono un sacco di militanti, un sacco di ragazzi, ragazzetti, ragazzotti, ragazzotte, che non hanno ambizioni, che non vanno neanche a fare le scuole serali a Brera, che però contribuiscono a creare immagini, a creare cultura, a vario titolo. Poi appunto Rostagno, anche lì, una figura di primo piano, ma poi a Macondo, come giustamente diceva Mario Mieli, la cosa più interessante sono le scritte dei cessi. E quelle chiaramente sono la creatività collettiva senza autore, totalmente anonima. Insomma. Quindi inevitabilmente poi il libro riproduce un po' questo tipo di pregiudizio, cioè sì, il grafico non famoso in tutto il mondo, però comunque una persona che ha un suo profilo artistico, però poi c'è la grande massa degli sconosciuti, certo. Ma infatti sono molto contento che ci sia Irene, perché poi ci sono appunto delle riviste come Gatti Selvaggi, dove chi è che fa Gatti Selvaggi? Cioè, non sono i grandi artisti, ma che producono immagini, cultura, dibattito. E tutte le riviste punk, ad esempio, chi le ha fatte? Boh, sì. Certo. Operai, ragazzi di 15-16 anni, che però ne capivano qualcosa, secondo me, delle culture d'avanguardia, forse. Assolutamente. E non per nulla le prime riviste punk si chiamano sì. Punk, più data, certo, certo. E, cioè, tutte queste cose qua. Che cosa capissero poi di quelle avanguardie? Boh. Però facevano dei collage come facevano i dadaisti, surrealisti. Sì. Esteticamente belle, sì, no, questo non è un discrimine, secondo me. Assolutamente. E capire quali erano le loro fonti, i loro interessi, certo. Cosa guardavano. E dire che anche questi ragazzi qua hanno creato il movimento assolutamente autonomo, insomma, certo. Qui per esempio avete una rivista che è un numero solo, fatta da un grafico appunto su cui ci sono dei materiali, delle tesi di laurea, si chiama Maoloni, che cita letteralmente l'opera di Elie Sitsky, un grande artista russo costruttivista, in quest'opera, questo libro che lui impagina, che si chiama Kunstism, viene pubblicato in tre lingue, credo lo dico in tedesco, e linea di condotta, la grafica, linea di condotta, una rivista del 75, cita letteralmente, proprio cita in modo, come dire, in modo più semplice possibile, la grafica degli anni 20 dei costruttivisti. Però, copia. Ecco, questa... Copia, perché i grandi artisti copiano, no? Paolo, vuoi... Tu che hai sempre un'opinione su tutto, dai. Ecco, una delle figure più importanti di questo libro, magari suo malgrado, è proprio Paolo De Ganello. In parte perché la sua biografia ripercorre tante di queste vicende, cioè dal gruppo N a Potere Operaio, all'Aeroporto con Magnaghi. E quindi lui mi diceva, ma insomma io sembro un grande protagonista di questa vicenda, ma non mi riconosco in questo ruolo. È un po' il caso, un po' il fatto che tu hai grande memoria, grandi archivi, che stai qui, insomma questo è anche il risultato dei nostri dialoghi. Basta così. Sì, poi nel libro c'è tanta architettura, io però non sono uno storico dell'architettura, quindi sicuramente se qualcuno lo prende in mano dal punto di vista della storia dell'architettura probabilmente riscontrerà tutta una serie di ingenuità, però c'è anche chi mi ha detto invece no, proprio questo tipo di atteggiamento secondo me è quello giusto, perché questo sarà a voi vedere, insomma. Uno storico dell'arte si occupa di architettura, è sempre un'avventura, diciamo. Abbiamo anche dei poeti in sala, potrebbero dire due parole. C'è una poesia ricorrente nel libro che è quella di Majakovskij sul corrispondente operaio. Ecco, da un punto di vista letterario, se volete, una delle grandi tradizioni che emergono trasversalmente a questo filone è quella dell'espressione diretta dei proletari, quindi che siano i partigiani condannati a morte durante la resistenza, che siano i corrispondenti operai, cioè quelli che appunto poco dopo la rivoluzione mandano le loro lettere più o meno sollecitate alle riviste bolscevichiche, e poi c'è Radio Alice ha un programma che si chiama Il corrispondente operaio, dove parlano tutta una serie di realtà operaie vicino a Bologna, tipo era gestita da un operaio della Ducati, insomma c'è questo tentativo di tornare all'espressione operaia con tutti i suoi limiti, ma insomma l'espressione diretta, questa è una, dal punto di vista letterario direi proprio una tradizione che viene fuori in questi capitoli. Ecco, a proposito del volume Lettere di condannati a morte della resistenza, tu scrivi in passant che questo libro fu apprezzato da Mario Tronti. Sì. E ci credo, era fatto da Giovanni Pirelli, che era all'origine di Quaderni Rossi. Certo. Per dire, uno dei tanti incroci vedevano la circolazione di idee, di ipotesi, di tentativi, anche contraddittori, anche in polemica, questo non c'è dubbio, ma che testimoniavano di uno sforzo, una ricerca per essere presenti alla storia, diversamente da oggi, quando si preferisce essere assenti da qualsiasi cosa. E l'ultima cosa che dico, poi possiamo anche chiudere se non ci sono altri interventi. Ecco, tra i tanti incroci possibili e da scavare, a proposito della questione dell'architettura e della lettura della città del Capitale, Noi Venuis, il suo progetto di Nuova Babilonia, i rapporti con Pino Gallizio, che si era prestato per la realizzazione di un campo nomadi non segregativo. È una domanda che io francamente non sono ancora riuscito a... Una figura importante, propositiva e ricca sul divenire della società, della città del Capitale, come Henri Lefebvre. Non sono ancora riuscito a capire quanto fosse o non fosse presente nel dibattito dei compagni di cui si parla allora. Ti è mai capitato di... perché oggi se ne parla, ma certo. Si parla di un libro di oramai 60 anni fa. Certo. Questa questione del diritto alla città, questa lettura politica della questione dello spazio, questa tematizzazione del rapporto anche in quel caso tra centro, periferia, programmazione, eccetera. Io non l'ho trovato, però rivolgo la parola a Paolo. Si leggeva Henri Lefebvre negli anni 60, 70, a Firenze, a Milano? Sì, si leggeva molto, e forse una cosa che posso dire questa sera è che è stato sottovalutato il problema fondamentale di questi giovani, questi studenti del liceo, il senso di dover fare un'attività che non aveva una diretta legittimazione pubblica. Per cui tutto l'impegno allora era comunque quello di ritrovare un rapporto, di costruire un tipo di progettazione che in qualche modo riuscisse a rappresentare quella rivendicazione di quel soggetto politico che veniva guardato con grande ammirazione e per il quale si voleva essere veramente dei soggetti propositivi. Il tentativo, la questione che tu affronti questa connessione tra la dimensione del progetto e la dimensione della militanza, ritorna sempre lì, cioè il progettista aveva bisogno della legittimazione della militanza e viveva il disagio di essere considerato un artista, mentre voleva tentare di essere contemporaneamente un artista militare. Questo appare nel tuo libro come un problema che continuamente si ripropone, ma probabilmente è una costanza. Tutte le avanguardie hanno sempre cercato di trovare la legittimazione militare. Certo, certo. Questo avviene anche allora. Sì, e a volte, e questo lo dico con gusto, nel senso che a volte questo bisogno di legittimazione veniva utilizzato anche strumentalmente, nel senso che quando poi Potere Operaio apre una galleria a Roma e incomincia a fare mercante d'arte per fare cassa, per pubblicare la rivista, per finanziare le sedi, a Roma ce ne sono, non è mai chiaro, insomma tra 4 e 10, insomma tutte queste sedi chi le pagava, anche perché Feltrinelli ormai era morto, insomma, uno degli strumenti era di andare a bussare alla porta degli artisti e fargli la lezioncina politica, a fargli la moralina, magari se vogliamo anche dire così, e spesso gli artisti, anche artisti di altissimo livello, dicevano va bene, ti do il quadro, venditelo, va bene, ti do questo, ti finanzio la mostra a Parigi, come fu il caso di Schifano, che dà a te, sì a te, perché poi i fondi per andare a fare una mostra, la mostra di Potere Operaio a Parigi, ma anche perché c'era un po' questo bisogno di legittimità, che veniva percepito e che andava anche in parte monetizzato, certamente. Ma quando è nato così? Per dire, cioè, con i soldi degli artisti, fatto continua finanza. C'era anche una dimensione negativa. Certo. La critica... Il microfono però è con la... Devi venire qui, Paolo. Sì. C'era anche una dimensione negativa del militare, che sfruttava il complesso di inferiorità dell'artista, che non riusciva a legittimarsi anche come militante politico, o comunque che non aveva lo spessore, la preparazione per poter testimoniare direttamente le motivazioni politiche del suo progetto, ma lì cercava di lavorare. E dall'altra parte l'atteggiamento che io ho sempre considerato molto sgradevole da parte del militante: tu che sei un artista vai a raccogliere quattrini dei tuoi consimili, tu puoi solo, e questo era il grande disagio, tu puoi svolgere solo il ruolo di essere un finanziatore diretto o diretto della militanza. Noi militanti abbiamo una purezza che tu artista continuamente aspiri di riuscire a realizzare, ma che non riuscirai mai a realizzare. A te non resta altro che raccogliere quattrini. Questa dimensione oggi andrebbe... Paolo, non era generalizzato, cioè, voglio dire, tra gli operaisti c'erano anche coglioni. Sì, però Sergio era un atteggiamento abbastanza Potrei, adesso non voglio fare le citazioni perché mi sembra proprio spiacevole, però era abbastanza generalizzato questo atteggiamento. Gli artisti servono a raccogliere finanziamenti per la militanza politica. Non c'era mai da parte del militante politico in che misura l'arte può dare un contributo. L'unico contributo che veniva riconosciuto come legittimo era appunto la grafica. Infatti andrebbe capito perché la grafica serviva poi a fare le riviste di militanza politica, ma di più non si andava, cioè anche perché tutto considerato si pensava che fosse una perdita di tempo dedicarsi all'arte quando era prossima la rivoluzione. Cioè, no. c'è da dire che qualche artista, per esempio Schifano, in un certo senso rivendica la giustezza di questa cosa, quando lui dice: io penso che per aiutare la classe operaia non serva a niente dipingere gli operai, invece dare soldi serve e io guadagno con una brutale facilità. E per certi versi, quindi, forse c'era anche qualche artista che riconosceva legittimità a questo atteggiamento. Sì, ma questo era un altro errore di Schifano. E così il discorso va avanti all'infinito. Sì, questa cosa che ho accennato prima viene ripercorsa ed è un po' una scoperta che ho fatto grazie a Paolo, di questa mostra a Parigi organizzata da Potere Operaio con i soldi di Schifano, disegnata, cioè lo spazio, come dire, espositivo viene disegnato da Paolo. Però i disegni sono di Barucchello, con i disegni. No, il progetto. No, il progetto, però alcuni il video, disegni, il video tu vuoi dire. Il video, esatto. Il video. E poi ho scoperto, esatto, nell'archivio, sì, c'era, nell'archivio di Novak, appunto una figura importante di Potere Operaio, Jaro Novak, sì. Ho scoperto quali video Potere Operaio è andato a presentare a Parigi. Ed è interessante perché anche lì vedete che non c'è un'estetica, c'è un famoso video di Barucchello, ma non c'è un'estetica, non c'è uno stato operaista, è un'estetica strumentale, secondo me. Cioè quella mostra viene concepita in prima istanza come strumento per parlare a un pubblico intellettuale, artistico, parigino, anche e soprattutto per andare a raccogliere fondi, perché poi si andava da Sartre, si andava dagli artisti un po' più noti francesi a prendere i quadri. E quindi è interessante sempre questo doppio binario: facciamo la mostra, ma la mostra ha anche una funzione strumentale. Però ecco, è interessante vedere anche poi i video che loro mostrano, le foto, qualcosa che è rimasto addirittura anche a casa mia, le diapositive, insomma. Vabbè. Secondo me si stanno congelando. Sì. Va bene. Possiamo. Grazie mille della presenza. Qui, grazie a tutti.